12 agosto 391. Ipazia ci precede. Cavalcando il suo puro sangue nero, la chioma ribelle sciolta sulle spalle. Mentre affrontiamo l'istmo dell'eptastadio, la meridiana posta sulla piazza segna la quinta ora. Il cielo è di nuovo limpido, sono svaniti vento e nuvole di ieri. Ipazia, con un tocco deciso del piede, lancia il cavallo in una corsa verso l'isola di Faros. È bravissima a cavalcare. E mentre si allontana, la sua figura diviene tutt'uno con il cavallo. Sembrano una sola creatura mentre fendono i riverberi del sole che sta accendendo d'oro il mare. Quando raggiungiamo il tempio, Ipazia sta parlando con un gruppo di persone ai piedi delle scale. Accanto a un'urna a vaso decorata con ghirlande di fiori e frutta che pendono dalla testa di Posidone. Sui volti della gente serpeggia la preoccupazione. Parlano animatamente. Si intuisce che la giovane sta cercando di tranquillizzarli. Poi si gira verso di noi. Ci raggiunge, seguita dal cavallo, e ci incamminiamo verso la nave di Zosimo. Mentre leghiamo i cavalli agli anelli di ferro incastonati su un muro in rovina del porto antico, Ipazia ci racconta che durante la notte un gruppo di persone ha circondato il tempio e scagliato pietre all'interno. La giovane prende sotto braccio il padre e ci avviamo verso la nave che, vista da vicino, è più piccola di quanto possa sembrare da lontano. Quando siamo davanti alla scala che conduce a bordo, chiamo a gran voce Zosimo, il quale mette il naso fuori da una botola, ci riconosce e ci invita a salire. Deve avere qualche anno più di Teone, faccia arcigna, capelli arruffati, naso arcuato. Ha negli occhi accenni di divertito mistero mentre ci fa accomodare all'interno. Qui un giovane, dagli occhi stralunati, getta le braccia al collo di Ipazia, la mia grande sorella scienziata. Epifanio! E la voce profonda di Teone è carica di affetto. Il giovane, senza permettere ai pazzi di divincolarsi, abbraccia anche il padre. Sono appena giunto ad Atene e prima di venire a casa ho approfittato per salutare Zosimo. Teone è emozionato. Ti trattieni un po' di tempo, figliolo. Una settimana, giusto il tempo di partecipare alle gare per la Consualia e poi di nuovo ad Atene. E la sua voce, lievemente nasale, è carica di entusiasmo. Padre, mancano 2 anni alle Olimpiadi. Ho già 23 anni. Non credo che ci saranno altre occasioni per me. Dopo comincerò una vita diversa e mi farò guidare da voi due. E bacia sulla fronte, prima Teone e poi Ipazia, il cui sguardo vibra indeciso, severo e affettuoso. Teone chiede al giovane se ha notizie del fratello Atanasio. È partito per l'Oriente assieme ad altra gente di Alessandria per provare ad approvvigionarsi di nafta. Dice che vino, olio e ceramica non offrono più i guadagni di una volta. Sembra che la nafta rappresenti il futuro. Ma sono necessarie navi come questa di Zosimo e sono venuto per cercare di convincerlo a venderla ad Atanasio. E cerca gli occhi del siriano. La faccia del vecchio si affloscia nella noia. A tuo fratello ho già risposto e lui sa che non venderò mai questa carretta. Ci ho trasportato rotoli e pergamena e voglio abitarci fino alla morte. Quando giungerà la mia ora, le darò fuoco e tornerò a riabbracciare il dio Posidone sotto il mare. Solo adesso Zosimo pare ricordarsi di me. Mi saluta, chiede di mio padre. Ipazia mi presenta al fratello Epifanio, mi lancia un sorriso, si congeda da tutti, ma solo dopo aver ottenuto la promessa che al tramonto parteciperemo alla rappresentazione di una commedia di Plauto al Teatro Grande. Borsotto a tracolla, luce spiritata negli occhi, fugge via, accompagnato dallo sguardo bonario di Teone. Ci sediamo su degli scanni, Zosimo vuole offrirci una bevanda, Ipazia lo interroga sugli accadimenti notturni. Il vecchio ci serve un intruglio buonissimo di cui non vuole rivelarci la provenienza e racconta: ci si vedeva pochissimo, a malapena un barlume del faro illuminava la zona. Sono arrivati armati di fiaccole e pietre, urlavano contro il dio Posidone e tutti i falsi dei, poi hanno cominciato a tirare pietre verso il tempio. Credo che abbiano tentato anche di sfondare il portone. Il tono è rabbioso, negli occhi un'inquietudine che non riesce a nascondere. Zosimo, ma questa gente era guidata da qualcuno? La voce di Pazia vibra, ansiosa. La gente viene sempre guidata. La sua faccia diviene ancora più arcigna. C'era una voce sepolcrale che sovrastava a tutti, che incitava. E beve il nettare della tazza. Ma a che devo la tua visita, Teone? Non dirmi che vuoi acquistare anche tu questa carretta, amico mio. Solo affittarla, solo affittarla. E senza darti un soldo, perché ne abbiamo ben pochi, purtroppo. E si passa una mano nervosa sul volto paffuto. E ciò che è accaduto questa notte al tempio di Posidone non fa che rendere ancora più urgente lo sgombero. Il vecchio commerciante sgrana gli occhi per la sorpresa. Teone, vuoi sgombrare la biblioteca? È questo che hai intenzione di fare? Le nostre facce sono trasparenti. E allora il suo sguardo diviene sospettoso. E volete portare qui una parte dei rotoli? Per trasportarli dove? Tutti gli originali della biblioteca, rotoli e codici di papiro e pergamena, dovrebbero essere 400.000 più o meno. E non appena possibile li portiamo in una sede più sicura, anche fuori Alessandria. Il volto aggrottato di Pazia s'apre fiducioso. Zosimo, hai viaggiato più di tutti noi. Forse puoi indicarci il luogo. Oh, grazie per tanta fiducia. Ma tu parli di 400.000 testi? Questa carretta è piccola e la sua voce diviene quasi piagnucolosa. Ci sono altri due locali come questi, uno alle mie spalle, uno alle vostre, e altri tre qui sotto, ma più piccoli, data la curvatura dello scafo. E in quali contenitori mettiamo codici e papiri? Provo io a rispondere. Posso chiedere a mio padre una decina di casse di legno e poi potremmo farci dare un po' di anfore da Zev. Ma così lo spazio disponibile si riduce. L'ideale sarebbero i dolia con tappi di sughero sigillati con la pece, così ho sempre trasportato i rotoli di papiro. E Zosimo affonda una mano nell'indomita chioma arruffata. Sai quanti rotoli trasportavo a pieno carico, Shalim? 70.000. Teone e Ipazia scuotono la testa. Io non abbandono lo sguardo diffidente di Zosimo. E allora non resta che accatastarli a mano, ordinatamente, con la speranza che ne entrino il più possibile, ma credo che dovresti venire a dare un'occhiata alla biblioteca. Il vecchio annuisce proprio mentre lo sciabordio di un'ondata un po' più forte fa ondeggiare lievemente la nave. Penso che sia l'unica soluzione possibile, amici miei, anche se è la più rischiosa. Questa carretta è vecchia e non si può escludere una falla. Perché non proviamo a chiedere al prefetto se ci concede uno dei piani del faro e prova a contagiarci con incerte briciole di entusiasmo. Fra di noi cala un improvviso silenzio. Poi è Ipazia a rispondere. Certo, il faro sarebbe un luogo ideale, ma Evagrio non mi sembra molto ben disposto nei riguardi della cultura. Tu, nel frattempo, vieni a Serapeo e organizza lo sgombero. Un sorriso amaro le piega le labbra. Zosimo, aiutaci, abbiamo così pochi amici, sembra che a nessuno importi di rotoli e codici. Sulla faccia del vecchio siriano un balenio di fiduciosa partecipazione. Non temere, amica mia, conta su di me. Vedi, l'anno scorso ho assistito ai due avvenimenti che stanno cambiando il corso della storia e così, la notte di Natale, ho deciso che nell'altro piatto della bilancia, quello dei popoli indifesi, quello del bene, del progresso, qualche granello di resistenza ce l'avrei messo anch'io. Zosimo deve leggere la curiosità sui nostri volti. Certamente voi conoscete i fatti, ma io li ho vissuti. Sono stati i miei ultimi due viaggi. Il primo a Tessalonica. Quel giorno dovevo scaricare, consegnare i rotoli e ripartire per Antiochia, ma stranamente il porto era deserto. I miei marinai scoprirono che il prefetto, a nome dell'imperatore, aveva indetto un giorno di festa a sorpresa e invitato tutta la cittadinanza ad assistere alle gare. E così si recarono tutti allo stadio. Io me ne restai a guardia della nave e trascorsi ore e ore a leggere. Occorre fare una premessa. Poche settimane prima, a causa di una stupida lite di corse e di un campione accusato di omosessualità, a cui fu impedita la partecipazione alla gara, alcuni cittadini si erano vendicati, uccidendo il comandante della guarnigione dei Goti, Buterico, che aveva provocato i tafferugli ma che godeva della stima di Teodosio. Dunque, era quasi il tramonto, i miei marinai non tornavano e ormai le gare dovevano essere finite da un pezzo. In giro non c'era anima viva. Si sentivano solo lamenti di cani e gatti che facevano venire i brividi. Un gatto riuscì, non so come, a saltare qui sopra e prese a piagnucolare, a lamentarsi, come un bambino. Gli detti da mangiare, ma rifiutò. Pensai che la causa poteva essere un terremoto. Prima che arrivassimo in porto a Tessalonica doveva esserci stato un terremoto. Mi stavo per fare coraggio, lasciare la nave e addentrarmi nella città, quando vidi uno dei miei marinai, sporco di sangue, trascinarsi nella mia direzione. Scesi. Era ferito alla testa, alla gola, a una gamba e perdeva sangue. Lo issai a bordo. Non volle che lo medicassi, mi implorò di fuggire, di mollare gli ormeggi. L'ordine dell'imperatore era stato chiarissimo. Ammazzateli tutti. Tutti chi? Gli chiesi. Tutti gli abitanti di Tessalonica. Le gare allo stadio erano state un pretesto. Avevano attirato i 7.000 abitanti della città nello stadio. E appena cominciate le corse, i soldati romani avevano chiuso le uscite, mentre dall'alto gli arcieri avevano cominciato ad ammazzare la gente. Quelli che cercavano di scappare venivano scannati, uno a uno. Lui era riuscito a salvarsi perché, ferito, si era gettato dagli spalti dello stadio su un gruppo di cadaveri. Era rimasto sepolto per parecchio tempo da altri corpi, poi era riuscito ad allontanarsi. Ma aveva intravisto soldati che andavano di casa in casa a uccidere i pochi superstiti. Avevano scannato vivi tutti, uomini, donne e bambini. Mollai gli ormeggi, liberai le vele e riuscimmo ad allontanarci appena in tempo, mentre i cani e i gatti di Tessalonica continuavano a piangere. Gli occhi fieri di Zosimo sono fissi sull'entrata della nave. Il suo sguardo vola lontano oltre il tempio di Posidone. Nessuno di noi osa rompere l'atmosfera drammatica che ha creato il racconto. E così Ambrogio, che è ormai il vero capo della cristianità, scomunica l'imperatore e gli fa sapere che non celebrerà più il sacrificio della messa in sua presenza, perché Teodosio non è più degno di Dio. Certo, potrebbe anche perdonarlo e restituirgli l'autorità presso i popoli, ma pretende che a un tale crimine debba seguire un sincero pentimento pubblico. È da ricordare che le 7.000 creature innocenti di Tessalonica erano quasi tutte cristiane. Teodosio prova a resistere, ma ormai Ambrogio lo tiene in pugno. Ovunque l'imperatore vada, la gente non lo rispetta perché è considerato un senza Dio, uno scomunicato. Non rispetta né lui, né i suoi generali, né i suoi prefetti. E così Teodosio cede. L'ultimo viaggio dello scorso anno mi portò ad Aquileia. Era metà dicembre. Volevo visitare la nuova capitale dell'impero e così decisi di andare a Milano. Mi trovai nella cattedrale proprio la notte di Natale. Non potevo farmi sfuggire quell'occasione. C'erano migliaia di persone. Quando giunse l'imperatore si creò un silenzio che mi rievocò quello di Tessalonica. Ebbi paura, ve lo confesso. Teodosio, vestito come un comune mortale, si prostrò lentamente e umilmente ai piedi del vescovo, deponendo sotto l'altare le sue insegne, chiedendogli perdono e recitando le parole del salmo: L'anima mia giace nella polvere. Signore, confortami secondo la tua parola. Da oggi, sentenziò Ambrogio, l'autorità divina starà al di sopra di quella terrena. Se aveste potuto osservare gli occhi del vescovo, erano ebbri della visione abbagliante di chi aveva vinto una battaglia epocale, una vittoria dalle conseguenze inimmaginabili. Il teatro grande è situato non molto lontano dalla casa di Pazia, a metà strada tra Via del Sole e il Cesareo. Proprio al centro, un'enorme quadrante meridiana. Solo Teone è seduto accanto a me sul carro. I pazzi ed Epifanio ci precedono a piedi e io faccio di tutto per non superarli. Fratello e sorella sono impegnati in una conversazione tempestosa, iniziata durante il pranzo a causa della cattiva alimentazione di Epifanio, e riguarda l'attività sportiva e soprattutto le gare di corsa che lui pratica. Lentamente si avvicina l'ora del tramonto. Il cielo da azzurro prende a diluire in un delicatissimo rosa. Non riesco a liberarmi da un senso di oppressione strano, inspiegabile. Ho persino attribuito questa mia sensazione al fatto che a tavola mi sono sentito un intruso nella famiglia. Ma non è così. Per Teone e Ipazia sono un figlio e un fratello. Epifanio mi è grato perché la mia presenza in casa loro tranquillizza la sua coscienza. Ipazia si gira, cerca gli occhi del padre e i miei, rallenta il passo, mi affianca. Che ti succede, Shalim? Hai un'espressione strana. Uno stormo di corvi abbandona il tiglio dinanzi a noi, vola verso il Cesareo e una volta oltrepassato il teatro assume la forma di un serpente. Ipazia mi guarda, preoccupata. Ti senti poco bene, Shalim? Ora so a cosa è dovuto questo mio malessere. Mi sforzo di sorridere e indico gli occhi incuriositi di Teone. Sono gli strani testi che scrive tuo padre. Prima di pranzo ho letto qualche brano del trattato sui presagi e sulla voce dei corvi. Ma il mio sorriso non deve essere molto convincente. Nel frattempo, dal tiglio all'altro lato della strada si libra in volo un altro stormo di corvi, silenzioso, e segue il cammino dell'altro. I pazzi Ateone ed Epifanio alzano lo sguardo. Padre, non ci sono un po' troppi corvi ad Alessandria in questi ultimi giorni? Mai nella mia vita ho assistito a un fenomeno simile. Hai ragione, Ipazia, e non riesco a spiegarmi da dove vengano. Di corvi ce ne sono sempre stati, ma non un simile esercito. La voce è grave. Quello che è più strano è il loro silenzio. Non posso fare a meno di intervenire. È ancora più singolare, signore, questo muoversi in formazione di serpente. E cerco i suoi occhi. Riesco a incontrarli, sono smarriti. Padre, guardami per favore. Ipazia cerca di richiamare l'attenzione di Teone. Padre, siamo scienziati, non possiamo farci spaventare da questi uccellacci che se ne vanno in giro a mangiare, ad accoppiarsi e ridere alle nostre spalle. E accarezza la fronte del docile ronzino. Teone cerca di sorridere, si sforza, ma riesce ad abbozzare solo un ghigno impregnato di inquietudine. Mi piacerebbe tranquillizzarti, figliola, ma non posso. A casa sono stato io a riesumare il mio trattato perché non ricordavo d'aver mai letto né osservato niente di simile. Sono alcuni giorni che è cominciato il fenomeno e poi ieri sono arrivati quel vento, quelle nubi, quella pioggerella di fango e dopo il vento tutti questi corvi. Si spostano di albero in albero e poi, quando avvistano il Cesareo, si muovono verso la chiesa. In formazione di serpente. Figliola, non posso dirti che è un cattivo presagio, perché mai si sono comportati così, ma non mi sento tranquillo. E questa volta lascia che le ombre calino sul suo volto. Ipazia non si dà per vinta, si gira verso Epifanio, osserva la faccia insolente del fratello, i suoi occhi forzatamente stralunati, ma li abbandona subito e torna a fissare me. Shalim, non capisci? Hai letto il testo di mio padre, ti sei fatto suggestionare tutto qui. Scuoto la testa. Non è così. Non c'è nulla che possa farmi paura, eppure da qualche giorno sento una strana sensazione di sgomento, di oppressione, e non avevo ancora letto il testo di Teone. La voce stonata di Epifanio è una scossa per noi tutti. Cosa mi perdo andandomene in giro per il mondo? Teatro direttamente a casa mia. La tragedia dei corvi è recitata da due scienziati e da un allievo della famosa scuola alessandrina ed esplode in una risata così vera, liberatrice, che riesce a contagiarci tutti, dissolvendo l'atmosfera carica di inquietudine che si era venuta a creare. Dietro al palazzo di Anfitrione, costruito sul fondo della scena, un sole rosso come il sangue si va nascondendo. Ancora manca una mezza clessidra prima che Mercurio dia inizio alla divertente commedia di Plauto. Ci siamo sistemati nella parte alta del teatro grande, pieno, a dismisura, appreso a spirare una brezza ristoratrice. Sotto di me c'è Teone, seduto tra Epifanio e Ipazia. Alla mia destra ci sono Zev e Zosimo, intenti a discutere se privilegiare il trasloco delle sole opere scientifiche dalla biblioteca oppure rinunciare a una parte di esse per far posto ai più importanti testi di filosofia e di religione. Non molto lontano da noi si sono sistemati Libanio e Masinta, Valeria è venuta a sedermi accanto, e il teatro si trova su una piccola collina e da dove mi trovo io posso scorgere la sommità del Cesareo. La indico alla mia compagna del centro studi. Non ti sembra un po' strana quella cupola? La ragazza volge il capo, aguzza gli occhi. Direi proprio di no. Il colore, Valeria, non è un po' diverso dal solito? Senza smettere di fissare nella direzione dell'enorme costruzione, Valeria aggiunge: Ora che lo dici, sì, è come se l'avessero pitturata di nero. E si gira verso di me meravigliata. È completamente tappezzata di corvi. Un lampo di sconcerto sul suo volto. Di nuovo volge il capo. Uno stormo a forma di serpente si avvicina alla cupola, plana e viene inghiottito dal nero brulicante. Poco dopo un altro stormo si libra in volo dal lugubre tetto. Valeria spalanca la bocca. Che vorrà dire Shalim? Ma neanche Teone, che ha studiato per una vita intera il volo dei corvi, è riuscito ad abbozzare un'ipotesi. Ho paura che riusciremo a trovare la soluzione delle quattro mandrie del mitico gregge del sole, prima di spiegare questo fenomeno. Ma un gesticolare di Pazia distoglie la mia attenzione dal volto di Valeria. Anche la mia compagna ha catturato lo sguardo della nostra maestra. Ipazia, hai visto il colore della cupola del Cesareo? Lo hai visto? Ipazia scrolla il capo. Valeria, spero che tu non sia caduta nella trappola che questi uomini stanno tendendoci. Mio padre e Shalim stanno cercando di convincerci che quella cupola è tappezzata di corvi. E cerca di sorridere, ma i suoi occhi sono attraversati da schegge di inquietudine. È uno scherzo in linea col carattere di questa serata, con l'atmosfera che riesce a suscitare una commedia di Plauto. E ci sorride, ma dentro quel sorriso c'è un dolore inspiegabile, misterioso. Volge il capo verso la cupola del Cesareo e protende una mano verso di noi. Io e Valeria non sappiamo cosa fare, mentre nello sfolgorio dell'ultimo squarcio di sole giunge un altro stormo di corvi a forma di serpente che ondeggia, vira, sale, scende e poi si getta sul tappeto nero e si fonde in esso. Restiamo in attesa. Ma nessun altro stormo sorge dal manto corvino. Mercurio intanto sta declamando il prologo sulla scena. Poi enuncerò l'argomento di questa tragedia. Come? Avete corrugato la fronte a sentir dire che questa sarà una tragedia? Le nostre mani sfiorano quelle di Ipazia. Una tragedia? Sono un dio e cambio subito tutto. Se voi volete, io la trasformo subito da tragedia in commedia, senza bisogno di toccare un solo verso. La nostra maestra volge il capo verso la scena, forse per non mostrarci l'angoscia che si va disegnando sui suoi lineamenti.